9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 22 febbraio, giorni in cui, come è inevitabile in questi casi di fronte all'assumere di toni e proporzioni impreviste di drammi che diventano tragedie, inevitabilmente quello che avviene a poche miglia di mare da noi in Libia è diventata il focus di turno dopo l'Egitto, dopo la Tunisia, dopo i disordini in Bahrain, dopo questa ondata che sta mutando la storia e gli equilibri politici e inevitabilmente anche economici e finanziari di paesi che siamo stati abituati per decenni a considerare pressoché immobili nelle mani di regimi assolutamente autoritari, ma che avevano una caratteristica in media, non sto parlando della Libia ma degli altri, di regimi autoritari che, come si dice insomma con una battuta un po' tradizionale e cinica, saranno figli di buona donna, ma l'essenziale è che siano figli di buona donna, amici miei. Ecco, tutto sta mutando, è evidente che l'Occidente, a cominciare dagli Stati Uniti quando è avvenuto con l'Egitto, paese che pure hanno finanziato per tanti anni, sono colti da una incapacità previsiva molto forte. Questo è evidente di fronte a questo tam-tam che si diffonde nei paesi da settimane oramai. Le cancellerie occidentali assistono con un misto di perplessità, sgomento e mancanza di informazioni, procedendo a tentoni. È evidente che è così. Il caso della Libia in questi giorni è forse il più macroscopico tra tutti gli esempi di precipitare della situazione che lascia i paesi occidentali muti e molto perplessi. La caratteristica in più è che questa volta il regime di Gheddafi, che da 42 anni al potere ha abituato nei decenni molto duramente, con un duro prezzo di sangue e di terrore, tutti i successivi governi dei diversi paesi occidentali a temerlo e a non capire mai bene quando esercita il controllo, quando appare che lo stia perdendo. E quindi questo spiega da una parte la perplessità, il timore, i toni che tranne la dichiarazione di ieri sera di Hillary Clinton in poi erano tutti effettivamente molto molto sottocalibrati rispetto alla gravità di quello che avveniva in Libia, un regime che aveva un controllo pressoché totale grazie a metodi spietati, a mercenari, a una diffidenza profonda anche verso le stesse forze armate. In Libia molto più che in Egitto si parla di un clan che controlla da decenni tutte le risorse petrolifere del paese, e la Libia è l'ottavo paese per riserve petrolifere al mondo, con 44-45 miliardi di barili di risorse stimate. Oggi ci interrogheremo sul qual è il ruolo del nostro paese in Libia. Avete già sentito dalla trasmissione di Alessandro Milan la politica che anche su questa vicenda si divide, come immagino si divida oramai su qualunque argomento in Italia, fino a che non si capisce se Berlusconi resta o non resta, per quanto tempo. La politica estera dovrebbe essere tradizionalmente un ambito nel quale maggioranza e opposizione ci dovrebbero pensare prima di alzare i toni, da noi talvolta così, ma di solito no. Sulla Libia in questo caso non è così. Tutti dimenticano che in realtà rapporti con la Libia l'Italia ha tentato di tenerli in questi 42 anni sotto qualunque regime. Ragionate prima di mandarmi i messaggi in cui direte che sto difendendo Berlusconi. Se tentate di ricordare la storia della Prima Repubblica e della Seconda Repubblica, vedrete che più o meno quello che vi dico è così. Ecco. Dopodiché, se volete dividervi anche su questo, fate, ma io non vi seguo. Allora, al tanto discusso trattato del 2008, alla visita di Gheddafi in Europa, perché non è che ha preso solo la tenda a Roma, l'ha presa anche a Parigi, e tutto questo è perché, ripeto, i regimi occidentali hanno dovuto fronteggiare una lunga scia di sangue e di terrore, e quando nel 2003 si trattò di farlo uscire dalla lista dei paesi terroristici, furono i servizi britannici, ancora più di quelli italiani, a fare da mediazione con gli Stati Uniti. Ricordate la consegna delle testate, di quel che restava delle testate di armi di distruzione di massa. Dopodiché la speranza che i rapporti si normalizzassero con noi, sia dal punto di vista del controllo dei flussi, di clandestini, la Libia ha sempre usato cinicamente quest'arma nei confronti dell'Italia e dell'Europa, sia dal punto di vista dei rapporti economici e commerciali. Noi importiamo 25 e talvolta anche 27-28% del nostro fabbisogno petrolifero quotidiano dalla Libia. L'Eni è lì dalla fine degli anni 50 e con 13 impianti diversi produce e importa in questi anni è andata da 350 a 380 mila barili al giorno di petrolio fino a 500 mila barili di petrolio al giorno a secondo di qual è il fabbisogno italiano, perché ha una notevole facoltà di alzare e aumentare la produzione e l'importazione in Italia. È una quota molto molto rilevante. Pensate che dall'Iran, altro paese delicato, noi ne importiamo non più di 150 mila al giorno, meno di un terzo di quanto facciamo dalla Libia. Siamo tradizionalmente il primo partner della Libia per un interscambio che era tornato dopo le sanzioni a essere sui 13 miliardi di euro l'anno, di cui oltre 10 e mezzo di importazioni, ovviamente soprattutto energetiche. E tradizionalmente noi abbiamo considerato i capitali libici capitali abbastanza affidabili negli incroci di potere che contro. Ricordate quando negli anni 75, dopo il primo shock petrolifero, salvarono la Fiat col sì di Cuccia di Mediobanca, sì un po' perplesso, ma Ugo La Malfa all'epoca era addirittura molto contrario, ma entrarono nel capitale Fiat, poi furono liquidati anni dopo, sono ancora oggi nella Juventus, sono il primo azionista tra Banca Centrale e Libyan Investment Authority, che è il fondo di investimento pubblico libico, in Unicredit, che è pur sempre la seconda banca italiana e la più internazionalizzata. La borsa italiana ieri ha ballato molto perché ci sono grandi imprese italiane che, al di là delle compartecipazioni azionarie come nel caso di Unicredit, hanno in ballo molti contratti per miliardi in Libia, perché proprio in questi anni, dopo il trattato che diceva dateci 5 miliardi l'anno in cambio vi facciamo fare l'autostrada tra Tunisia ed Egitto, e per quell'autostrada in pregilo insieme ad altre aziende italiane aveva praticamente l'impegno per la sua realizzazione dei primi due lotti. Ansaldo, il gruppo Finmeccanica, che pure ha un 2% nel capitale di capitale libico, Ansaldo aveva contratti per 770 milioni di euro per la segnalazione dei nuovi tratti ferroviari. Insomma, per l'Italia l'impatto economico finanziario è molto forte, il passato che noi abbiamo coloniale negativo è molto forte. Dovremmo essere forse per queste ragioni il paese che più si dà da fare a nome dell'Occidente, e oltre che per i nostri interessi, per capire cosa succede e per tentare di stabilizzare e avere buoni rapporti. Ricordo a tutti che ieri David Cameron, il premier britannico, è già andato in Egitto a contattare i militari, ha visto i movimenti di opposizione tra la Fratellanza Islamica, ha mostrato come un grande paese che ha con l'Egitto un rapporto storico derivante da Suez e dalle colonie, non ha timore di esporsi e di fare una missione. Ovviamente finché ci sono le stragi in Libia e non si capisce chi esercita il potere per quanto, questo non è possibile. Però è vero che l'Italia deve candidarsi a un ruolo, e forse capire quale ruolo, se abbiamo gli strumenti per capire se sono le tribù Cirenaica, Fezzan eccetera dietro questo movimento, o se sarà anche come in Egitto, però la storia è diversa, l'esercito a essere garante di una transizione alla Libia nuova, dovremo vedere, ma secondo me noi dovremo essere in prima fila per tentare di darci da fare. Non vedo i segni di tutto questo, tentiamo di capire con i nostri ospiti come è possibile prevedere gli sviluppi e l'impatto sul nostro paese di quanto avviene. Abbiamo con noi Angelo Del Boca, saggista e storico a cui dobbiamo molto della ricostruzione di come l'Italia si è comportata in Libia. Buongiorno ad Angelo Del Boca. Buongiorno. E abbiamo Ettore Greco, che è direttore dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno Greco. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, innanzitutto io partirei da Greco. Dalle notizie che hai, dalle ricostruzioni più recenti fino a stanotte, la rivolta in corso in che cosa si differenzia da quella egiziana? Vaste masse di forze politiche di opposizione o comunque di tradizioni diverse che conosciamo, dal Wafa, dalla Fratellanza Islamica. Non si parla di un paese come la Tunisia, dove dalle élite ai giovani sono formati nei licei francofoni. In realtà che cosa sta avvenendo? Perché è saltato il tappo? Ma è evidente che c'è stato un effetto contagio che è molto chiaro in tutta questa vicenda della rivolta nei paesi arabi. Però ci troviamo di fronte a un regime diverso dagli altri. Diciamo che qui le tipologie sono due: da un lato vediamo le monarchie come in Marocco, le monarchie del Golfo, anche forse la Giordania, nel quale le proteste si stanno dirigendo più verso settori dell'establishment, vengono chiesta una costituzionalizzazione di questi regimi, e quindi non c'è un obiettivo immediato o una richiesta per esempio che i monarchi vadano via, anche se queste proteste anche si stanno radicalizzando. C'è il caso invece di queste repubbliche autocratiche, il caso dell'Egitto, della Libia e della Tunisia, dove la richiesta è stata la richiesta radicale naturalmente di cacciare il dittatore al potere. Nel caso però della Libia le cose sono anche molto più complicate dal fatto naturalmente che abbiamo assistito e stiamo assistendo a una repressione feroce, dove non sembrano esserci quei margini di apertura di una fase di transizione che stiamo vedendo, sia pure in forme molto contraddittorie e difficili, per esempio in Egitto e Tunisia, perché il regime aveva fatto una tabula rasa anche più assoluta di quello che era accaduto per esempio in Tunisia. In Egitto, come si sa, c'erano comunque qualche spazio di libera espressione del pensiero, un'articolazione della società civile, e quindi qui il rischio che si vada verso un collasso dello Stato e forme più o meno accentuate di guerra civile, anche se adesso assistiamo più che a una guerra civile, a una guerra di Gheddafi, il dittatore contro il suo popolo, in realtà credo si possa dire, è molto alto. E a questo punto, naturalmente, se questo dovesse verificarsi, la responsabilità internazionale crescerebbe moltissimo, perché naturalmente di fronte a una situazione di guerra civile e di instabilità permanente che potrebbe prolungarsi a lungo, ci sarebbe anche una responsabilità di intervento, oltre che di assistenza, nelle forme che poi si dovranno vedere. Quindi per il momento naturalmente dobbiamo far fronte all'emergenza, a quella poi che verrà sicuramente degli sbarchi, delle nuove andate di immigrazione dalle coste nordafricane. Si tratterà naturalmente non soltanto di libici ma anche di africani dell'Africa subsahariana, ma la difficoltà ovviamente è che non abbiamo un interlocutore, non stanno emergendo, come invece è successo dopo pochi giorni o dopo qualche settimana in Egitto e Tunisia, delle forze, cioè un perno istituzionale attorno a cui è stato possibile avviare questi processi, seppure difficili, di transizione. E quindi io credo che la responsabilità internazionale, e quindi ne dovremmo parlare, credo, e soprattutto anche italiana in particolare, sia molto alta, superiore a quella degli altri casi dei paesi nei quali invece è stato possibile esercitare un'influenza sull'establishment, con quali c'era un legame molto più stretto e di reciproca dipendenza in qualche modo. Del Bocca, alla luce della nostra storia noi dovremmo saperne di più anche attualmente di chi ha la testa delle diverse tribù che continuano in realtà, da quello che si è capito, a innervare e anche a spiegare perché quel particolare regime libico fatto dei consigli popolari, della rivoluzione, e perché in Egitto appunto la struttura berbera e la struttura delle tribù rimaneva molto più forte che nella Tunisia laicizzata, inurbata in buona parte, e perché pur sapendone probabilmente per la nostra storia più degli altri sembriamo più lontani degli altri in queste ore dalla vicenda libica, secondo lei? Ma io non è che voglio giustificare completamente chi ha fatto il trattato di Bengasi, che è stato un trattato a mio avviso più commerciale, più economico che politico, perché in realtà sapevamo anche 2 o 3 anni fa che Gheddafi era un dittatore. Sapevamo perfettamente che la Libia non rispetta i diritti umani. Non c'è Quindi dubbio. Tutto questo è nato in un'atmosfera di amicizia fra Berlusconi e Gheddafi. Ecco, quindi in un certo senso il nostro errore va molto lontano. Però voglio anche dire che noi eravamo anche costretti a fare questo passo, perché Gheddafi giustamente ci ricattava continuamente dicendo: voi siete responsabili di 30 anni di dura repressione, non dimenticate che 100.000 persone, vale a dire un ottavo della popolazione della Libia, sono state uccise da voi. E quindi voleva da anni, addirittura dall'anno dopo che ha preso il potere, voleva assolutamente che ci fosse un risarcimento. Il risarcimento l'abbiamo dato ed è un risarcimento molto pesante, perché 5 miliardi di dollari per, insomma, no, non è poco. Ecco, quindi noi siamo sempre stati in una posizione che ci impediva in un certo senso di parlare chiaro. Ecco, questo lo voglio dire, anche se non ho molto apprezzato l'atteggiamento del nostro governo. Secondo lei siamo in condizioni di rappresentare un'interlocuzione per un'eventuale Libia, difficile da capire in queste ore, in cui non è più il clan Gheddafi al comando? Ma oggi come oggi non c'è nessun personaggio che si sia esposto. Molti dicono, beh, Jalloud, che era il famoso numero due di Gheddafi, che era stato messo in un campo, potrebbe essere l'uomo per prendere il potere, però Jalloud ha 70 anni, non è sicuramente l'uomo che può diciamo partecipare a una riconversione di questo paese. Un altro personaggio che potrebbe essere un buon interlocutore potrebbe essere uno dei figli di Gheddafi, Saif Islam, che in questi anni ha dimostrato di voler portare il paese sulla strada della democrazia. Attualmente, tra l'altro, lo conosco anche molto bene, attualmente sta costruendo la nuova costituzione, anzi la sola costituzione libica, perché la Libia non ha uno statuto, e quindi è un personaggio sicuramente il meglio che si possa oggi vedere in Libia. Però io penso che questa rivolta porterà alla eliminazione completa della famiglia e del clan di Gheddafi. Quindi anche se si possono fare delle distinzioni fra Gheddafi e il figlio, non credo che questo basterà a sedare questa rivolta. Quando nella sua apparizione televisiva più lunga Saif al-Islam, il figlio, ha parlato di un rischio concreto di frattura tra est e ovest del paese, tra Cirenaica e Fezzan, è concreto ancora? Cioè questa roba per cui tutta la parte verso l'Egitto è in fiamme, mentre altre parti della Libia lo sembrano meno, è una rottura che ha a che vedere anche per esempio con l'eventuale attribuzione delle diverse parti delle risorse petrolifere del paese, un po' come è successo in Sudan tra nord e sud, o che ragione ha? Ma io penso che il Saif al-Islam intendesse dire che la Cirenaica è ormai persa, nel senso che la Cirenaica non sia mai stretta con Gheddafi. La Cirenaica ha sempre dimostrato un forte dissenso e per motivi storici. La Cirenaica è ancora sotto l'influenza della confraternita religiosa Senussia e quindi del re che ha guidato questo paese fino a quando Gheddafi lo ha destituito. Non solo, ma da quello che ho visto, dei cartelli che ho visto a Bengasi, il fatto che omaggiassero ancora Omar el-Mukhtar, cioè il famoso comandante che ha sconfitto per 10 anni gli italiani e poi è stato dagli stessi impiccato a Soluk nel 31, questo dimostra che in un certo senso la Cirenaica potrebbe andare per conto suo, cioè la spaccatura avverrebbe al livello di Sirte. È difficile immaginare tutto questo, ma è difficile anche immaginare che avremmo assistito a tutto questo con un'Unione Europea così abbastanza balbettante, a dire il vero, molto divisa al suo interno. I rapporti storici che diversi maggiori paesi europei hanno avuto con la Libia sono molto diversi da quelli che vengono dichiarati, perché io sono stato testimone, io sono scrivendo anche su riviste di sicurezza, di intelligence, eccetera, sono nei decenni ho visto diversi paesi europei, sicuramente la Francia, moltissimo, sicuramente i britannici, sicuramente i tedeschi, trafficare moltissimo con i servizi libici e con il clan Gheddafi in persona. Vi ricordo che tra tutte le autocrazie del mondo nordafricano e dei diversi paesi musulmani, questa è quella che aveva il controllo più diretto e assoluto delle ingentissime riserve petrolifere e royalties. Quindi stiamo parlando di un flusso negli anni di miliardi di dollari che attraverso la banca centrale e il fondo di investimento nazionale poi venivano reinvestiti il più a breve nel sistema bancario internazionale, ed è con queste risorse tra l'altro che il regime libico ci ha abituato nei decenni non solo a minacciare ma a armare, a destabilizzare direttamente vaste aree per esempio dell'Africa subsahariana e a vicende di terrorismo come quelle appunto del cielo di Lockerbie, ma nei decenni precedenti molti altri esempi. E anche per questo con l'Occidente da una parte però titolo tuba perché ha paura se Gheddafi non perdesse il potere, ma dall'altra parte è abbastanza incomprensibile che di fronte a quello che avviene si stia semplicemente a guardare, perché la possibilità di dire ai libici interveniamo in qualche modo per evitare centinaia di vittime tra di voi, tutto sommato sarebbe un ponte verso il futuro post Gheddafi, di qualunque tipo di futuro si possa trattare, ma meglio occuparsene piuttosto che no, non vi pare? Pubblicità. Eccoci tornati in studio, un occhio incollato alle agenzie dalla Libia, ma affrontiamo un'altra questione con un'altra ospite, perché in queste settimane uno dei temi ricorrenti è quello per il quale l'Occidente avrebbe tenuto in piedi, contribuito potentemente a tenere in piedi e a tenere gli occhi chiusi di fronte a queste autocrazie, perché tra l'altro indotto a un clamoroso errore, a una grande paura, a una specie di mistificazione collettiva, quella di considerare questi regimi come un argine al fondamentalismo islamista. È diventato un refrain in queste ore, anche ieri sera io ero al TG3, ho dovuto fronteggiare questo argomento dicendo: questa colossale bufala di credere che questi paesi non siano che destinati al fondamentalismo islamista ci ha tenuto gli occhi chiusi, le orecchie tappate e le mani solidamente nelle stesse tasche di affari loschi che facevano queste autocrazie. Ora, io non posso che dire che per la mia formazione e interesse considero invece questo tutt'altro che un rischio. Non sono dell'idea affatto, conoscendo un pochino quei paesi da appassionato di storia e cultura, che di la grande illusione animata con una certa anche superficialità da questa amministrazione americana sia che ci sia il grande contagio della generazione democratica di Twitter in corso in Nord Africa. Questo sarà sicuramente un elemento, però credere che, se non l'abbiamo capito in 10 anni dal post 11 settembre, sia la democrazia occidentale quella che attecchisce e si esprime liberamente, anzi spontaneamente, in ambienti che hanno storia, cultura, valore molto diversi dai nostri, secondo me questo è un errore. Quando al-Qaradawi 2 giorni fa ha spazzato via dalla piazza Tahrir quello che i giornali occidentali hanno considerato come il vero guru intellettuale della rivolta, il manager di Google, e con poche storie ha detto nel delirio della piazza si compirà il mio sogno di fare una predica ad Al-Aqsa, a Gerusalemme, eccetera eccetera, ho l'impressione che non sia una invenzione di noi occidentalisti che temiamo il diavolo musulmano. Non c'è il diavolo musulmano, ma c'è da capire che cosa dei fenomeni che stanno avvenendo porterà o possa portare, se l'Occidente commette errori e se quei paesi non hanno il DNA dentro per sapere resistere, a una inevitabile ondata di nuovi califfati ed emirati. Questo rischio esiste, tentiamo di capirlo. Abbiamo con noi una delle più intransigenti analiste su questo, Fiamma Nierenstein, che è vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati. Io la saluto, la ringrazio e le chiedo: quanto di quello che sta avvenendo può portare a sviluppi di questo tipo? Sì, guardi, diciamo che quello che lei chiama il pericolo islamista non è soltanto islamista, è il pericolo della cultura dell'odio. Quindi a me sembra più interessante che affrontiamo questo tema, che è stato largamente affrontato da analisti della storia medio orientale come Fuad Ajami, che ha dedicato un libanese di cui consiglio la lettura a chiunque, per capire la mente islamica, la mente araba in particolare. E poi rimando a tutti i libri di Bernard Lewis, il grande professore che ci ha spiegato il Medio Oriente come nessun altro, e che ci dice, che me l'ha detto anche ieri sera al telefono, e mi pregio appunto di telefonarli, perché con lui ho lavorato, ho studiato eccetera, di ogni tanto di telefonarli per chiedergli lumi su questa difficilissima situazione. E guarda, vorrei appunto ripetere quello che lui mi ha detto ieri in una parola. Lui ha detto: qui abbiamo di fronte delle maree di giovani che certo hanno incontrato Twitter, e qui Gianni, la sua analisi è assolutamente perfetta, hanno incontrato Twitter, hanno incontrato Facebook, senz'altro sono affascinati e sedotti dalla cultura della modernità, ma che purtroppo invece hanno oramai appunto da decenni dentro di sé ciò che i loro dittatori fossero più o meno di tendenze islamiste o abbiano cavalcato, perché anche Mubarak l'ha cavalcata, la cultura islamista, nonostante fosse così, diciamo, un laico, lo dico in modo molto occidentale questa parola, poi dovremmo affrontarla meglio per capire. Dice Bernard Lewis, questi dittatori per sopravvivere, per seguitare a dominare una popolazione in cui i giovani sono in continua crescita, frustrati, repressi, senza denaro, senza lavoro, spingono continuamente le loro pulsioni in una direzione anti-israeliana innanzitutto, anti-americana, anti-occidentale, danno la colpa, condannano continuamente l'Occidente e soprattutto gli ebrei, anche c'è molto antisemitismo, ovvero un tema che viene continuamente ignorato ma che invece è ormai diventato di importanza primaria, e individuano di continuo una serie di teorie della cospirazione di cui queste persone sono imbevute. Dunque, da una parte noi dobbiamo essere contenti, io penso, di queste grandi rivoluzioni che dimostrano che il mondo non è fermo, vero? Questo è sempre una gran bella cosa, no? Quando vediamo che le cose possono cambiare, modificarsi, lì si suscita la nostra speranza, ma dall'altra parte non c'è dubbio che questo elemento della cultura dell'odio, guarda, basta andare a guardare, se uno ha un computer basta vada a guardare sotto la sigla MEMRI, M-E-M-R-I, che elenca tutti i giorni quello che si scrive sui giornali arabi, quello che si dice nelle moschee, oppure Palestinian Media Watch, PMW, basta guardare questi due fonti inesauribili di conoscenza, di pazientissimi personaggi che studiano e traducono senza sosta. Bene, io veramente invito i suoi ascoltatori a dare un'occhiata a queste fonti per capire di che cosa è impastata una mentalità che quindi oggi, se da una parte, diciamo così, ci fa piacere notare che sia stata per un attimo sovrastata dal desiderio di libertà, dall'altra parte invece è indubitabilmente caratterizzata da questa storia. Allora, le due sigle che potete ricercare sono MEMRI, M-E-M-R-I, e Palestinian Media Watch, sono fonti che anch'io devo dire molto dopo fiamma nera, vi dico, mettetele sui vostri preferiti per tentare di capire, di conoscere da fonti dirette che cosa si dice, che cosa si pubblica, quali sono i sermoni, quali sono. Vedrete che non è una invenzione di noi occidentalisti questa tendenza, che non bisogna considerare rappresentativa di tutto l'Islam e tutto il movimento musulmano. Per carità, stiamo parlando di un mondo complesso, di un mondo dove esistono articolazioni, correnti, scontri terribili tra sunniti, sciiti, eccetera, però è una tendenza che mi sorprende essere descritta in queste settimane come una specie di torbida invenzione dell'Occidente per fare affari coi dittatori, come se non esistesse poi davvero nelle società, arando esattamente nelle aree di quelle società in cui povertà, miti, illusioni, sproporzioni tra le risorse in mano ai ricchi amici degli autocrati rispetto a promesse non mantenute di vasti strati della popolazione, questo soprattutto in Egitto, nelle università egiziane, hanno portato tanti giovani poi a considerare anche il fondamentalismo delle scuole islamiche come una prospettiva che incardina diritti, protesta, rappresentanza. Sentiamo come la pensano alcuni dei nostri ascoltatori, cominciamo con Stanislao che ci chiama da Salerno. Prego Stanislao. Salve, buongiorno direttore. Senta, io parto da due osservazioni, una di natura sociale e una di natura economica. Quella economica, penso che in questi paesi, in tutta la fascia dei paesi coinvolti in queste rivolte, ci sia una rivoluzione francese, cioè nel senso che c'è una nuova classe borghese che si sta creando e che quindi vuole accedere anche alla gestione del paese e non riconosce più quindi questi regimi o queste oligarchie di controllo. L'altra invece è la vera. Anche se posso dire una cosa, nel quartiere borghese, quello dell'isola, per capirci, al Cairo, è l'unica parte della sterminata città in cui si sono viste manifestazioni di qualche poche migliaia di sostenitori del Raïs. perché qui il concetto di borghesia all'occidentale, e di solito la borghesia del bazar o dei grandi affari in quei paesi, per esempio in Egitto, era sicuramente vicina ai clan che controllavano, e i vertici delle forze armate che controllano il 70% delle imprese egiziane. Comunque, per dire, solo per dire, i paesi sono diversi. Prego, non ti ho interrotto. L'altro aspetto invece era già individuato, che forse queste sono le prime rivolte che si coordinano con internet, cioè sostanzialmente internet, questo è un fatto, ha giocato un elemento fondamentale di confronto, però ripeto, usando sempre come dire un parametro occidentale, cioè il concetto di borghesia, ritornando invece all'altro aspetto, non abbiamo solo una borghesia amministrativa, burocratica, abbiamo anche una piccola borghesia, una fascia di cultura che si è innalzata. Ci sono molti laureati che vengono da questi pezzi, e questo chiaramente è sì, creato. I giovani laureati senza futuro, Stanislao, questa è una osservazione secondo me, dalla Tunisia all'Algeria, al Bahrain, all'Egitto sicuramente, questo è una parte dei più che si è visto, ecco, nelle piazze, molto più dei diseredati e basta, che soprattutto in Egitto ci sono tanti, ma a Tahrir non erano proprio loro, insomma, a Piazza Tahrir. Francesco che ci chiama da Lecce, prego Francesco. Salve, pronto? Sì, si sente molto male, dica. Ah, va bene, mi scusi. No, io volevo dire semplicemente che è un errore delle democrazie occidentali, meglio dei clan, delle democrazie occidentali che sono al potere, che è quello di considerare il mondo occidentale come pecunia non olet, ossia là dove si fanno affari non si guarda chi li fa, come li fa, perché ci sono le grandi imprese come l'Entre Giro, come le grandi multinazionali che vanno a lavorare ad offrire il lavoro, e non si pensa affatto che questi denari o queste opportunità che si danno a quei paesi si danno soltanto ai clan che sono al potere in quei paesi. Però Francesco, posso dire, Francesco, questa osservazione non è che noi, chi non sapeva che si dava al regime libico? Il problema è che il regime libico per decenni ha mietuto vittime nell'Occidente, e ha minacciato e ha fatto quello che minacciava, e oltretutto a noi direttamente ci ha anche mandato i clandestini dicendo o fate così o con me e mi riconoscete cose in cambio oppure continuo. Lo si sapeva, cioè quello di Gheddafi è stato un ricatto esplicito, violento, duro e terroristico. E il problema è che cosa bisogna fare? Ci dice, coi capi di questo tipo non si tratta? E allora bisognerebbe abbatterli. Se li abbattiamo con le guerre, dite che non va bene, cosa si fa? Il realismo dice che si tenta di rabbonirli e anche di farci affari. Poi naturalmente quando cadono tutti si dimenticano di essere d'accordo con questa linea, perché è stata una linea bipartisan, Il trattato, quello del 2008, in Parlamento lo hanno votato anche quasi tutte le sinistre, quasi, PD l'ha votato, altri pezzi di sinistra no, però sono linee bipartisan. È vero che il realismo talvolta porta ad apparire corresponsabili di stragi terribili, e questa è una drammatica, l'ennesima lezione della storia. Adriano da Milano, prego Adriano. Buongiorno a tutti. Io esordirò con una frase che recita: abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza. Questo lei l'avrà capito benissimo, dottor Giannino, è il motto dell'illuminismo. Ecco, l'illuminismo che ci ha reso liberi, ci ha fatto ragionare senza il vaglio della religione, è una cosa che purtroppo nell'Islam è di là da venire. Per cui io auspico dei movimenti culturali, auspico oltre a queste rivoluzioni violente, auspico in sostanza una rivoluzione culturale, che quello che forse, probabilmente, spero, porterà alla libertà vera. Adriano, vede, detta come l'ha detta lei, posso permettermi di fare un'osservazione. Si espone all'osservazione che lei è un antimusulmano. Perché dire che l'Islam in quanto tale non ha conosciuto mai niente di paragonabile all'Aufklärung, no? A questa ragione che prende la candela in mano e diffonde intorno a sé la chiarezza, emendandosi dal vizio distorcente di ciò che impediva alla ragione l'autoasseverazione di quello che c'è intorno a sé, l'illuminismo. Beh, per esempio nella storia dell'Islam non è del tutto vero. Se lei pensa all'importanza fondamentale nel pensiero musulmano, coerentemente e ortodossamente musulmano, dell'aristotelismo, che anzi ci consegna e ci reimporta in Occidente ciò che avevamo perduto, gran parte della tradizione scritta di Aristotele, e quindi sto parlando di Averroè, Avicenna, eccetera eccetera, e non si può dire che lì non ci fosse ragionevolezza e i semi di qualche cosa di paragonabile a quello che molti, moltissimi secoli dopo ne abbiamo scoperto. Noi abbiamo scoperto la bellezza i 12 secoli dopo di quanto lo praticassero loro. Quindi il problema è che l'Islam è un mondo complesso. È vero che tra le religioni del libro ha la caratteristica di non conoscere l'equivalente di San Tommaso, della Cabala o del Talmud, e per la natura apodittica della consegna di ciò che il profeta dettava a Maometto, secondo Maometto. Detto questo, attenzione, non sarei proprio così del tutto d'accordo. Bisogna saper distinguere e conoscere ciò che nell'Islam è più aperto a punti di vista ragionevoli e razionali rispetto a tradizioni di rigorosissima ortodossia del taglio delle mani e dell'interpretazione da parte di un clero autocentrato di che cos'è il dovere del credente. Le informazioni sulla circolazione stradale. Allora, secondo Press TV, all'alba di questa mattina, nuove incursioni di aerei militari libici sui manifestanti riuniti a Tripoli, nuove smentite invece dalla televisione di Stato, quella che ha mandato in onda qui il clip con le 22 secondi stanotte tardissimo, secondo i quali Gheddafi sarebbe ancora a Tripoli. Oggi più tardi si riunisce il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dopo che anche il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ieri a lunghissimo non sapeva che pesci prendere di fronte alle richieste di riunione. Non solo l'Italia ha esitato. Angelo Del Boca, lei pensa che in qualche misura l'anomalia libica rispetto agli altri paesi sia più forte di ciò che lo unisce rispetto alle altre rivolte, oppure no? Beh, sicuramente è più forte. È più forte perché, non solo perché il paese era molto più ricco, non dimentichiamo che lei ha dato giustamente delle cifre, ma quelle cifre sono sottostimate, perché di recente hanno fatto dei sondaggi veri e si dice addirittura che il petrolio in Libia è forse il numero uno e non il numero quattro. Quindi questo è un elemento importantissimo. E poi anche il fatto che in un certo senso, come diceva lei, la situazione è talmente complessa e adesso c'è un altro risvolto, cioè che cosa faranno le tribù montane, che ieri hanno detto delle cose veramente incredibili. Cioè praticamente la riunione degli anziani ha detto: questo personaggio non sa governare e quindi chiediamo ai giovani di combattere, ai militari di disertare, a Dio di portare all'inferno Gheddafi. Ora, con dichiarazioni del genere, le tribù montane, che sono importantissime perché sono a 50 km da Tripoli, potrebbero veramente cambiare completamente la situazione, perché le tribù degli Orfella, degli Zintan, dei Rojeban, sono importantissime, sono state sempre molto, come possiamo dire, molto abbandonate da Gheddafi, che voleva prendersi lui tutto il merito dell'anticolonialismo e dell'antiimperialismo, dimenticando che erano quelle tribù montane che avevano messo in difficoltà gli italiani, erano loro che avevano vinto la battaglia di Charashat. Ecco, io penso che se ci sarà una svolta, la svolta sarà per queste tribù montane. Ettore Greco, direttore dell'Istituto Affari Internazionali. L'Iran condanna le violenze del regime. Oggi ci sarà una riunione straordinaria della Lega Araba. Ecco, noi siamo forse un po' poco attenti a come il resto dei paesi nel Medio Oriente, arabi, musulmani, eccetera, quello non direttamente già interessato dai cambi di regime, come in Tunisia e in Egitto, guarda a quello che succede nel resto dei paesi. Di sicuro però l'Iran, che è una delle potenze che più ha cresciuto la sua influenza in tutta l'area grazie a una politica molto dura, muscolare, contro Israele, il piano atomico e così via, da quello che sta avvenendo ci guadagna o ci perde? C'è chi dice e teme che in realtà potrebbe avvantaggiarsene, e si fa soprattutto riferimento a queste fibrillazioni fra gli sciiti. Abbiamo visto in Bahrain che una notevole parte dei rivoltosi era ovviamente sciita, anche se poi mano a mano si è scoperto che si trattava di una rivolta a cui avevano partecipato anche i sunniti, quindi aveva un segno simile a quello delle altre rivolte. Quindi si è un po' esagerata questa pericolo, diciamo, che l'Iran possa inserirsi in questa situazione avvantaggiandosene, sfruttando, diciamo, questi suoi collegamenti con i movimenti sciitici. L'altro aspetto riguarda naturalmente l'indebolimento che potrebbe verificarsi progressivamente delle monarchie del Golfo, certamente questo potrebbe avvantaggiare geopoliticamente l'Iran, così come in generale l'indebolimento anche dell'Egitto, che è l'altra potenza regionale. Non si sa fra l'altro quale sarà il rapporto fra Egitto e Iran, è la cosa più incerta a questo punto, perché dipenderà naturalmente dalla nuova leadership egiziana. Ed è la posizione che prenderà verso il paese verso il quale dovremmo poi essere un pochino più attenti, e col quale concludo con la domanda fiamma nera. Dal punto di vista di Israele, che cosa sta cambiando e quali sono i grandi rischi? Guarda, la cosa veramente drammatica che sta cambiando è l'ingresso delle navi iraniane, qui appunto proseguo nella risposta precedente. Delle navi iraniane da guerra si sono prima fermate in un porto saudita, cosa che non era mai stata permessa loro, perché l'Arabia Saudita e l'Iran sono grandi nemici, sia per motivi sunniti sciiti, sia anche per motivi più vasti, insomma, di egemonia, su cui ora non mi soffermo. Sono partiti da un porto saudita, da Jeddah per la precisione, e poi che cosa hanno fatto? Si sono infilati per la prima volta dalla rivoluzione iraniana nel canale di Suez, e pare che ci siano entrati stamattina, e stanno tranquillamente navigando verso il Mediterraneo, dove verranno accolti nel porto di Tartus in Siria. Tu capisci bene che questa è una rivoluzione spaventevole, non soltanto per Israele, che guarda con grande preoccupazione sia a questo che alla problematica relative al suo trattato di pace con l'Egitto, sia in generale, è vero, a quella che potrebbe risultare, guarda con problematicità le stesse questioni cui guardiamo noi, cioè quelle dell'allargamento di un fronte estremista. Questa è la problematicità di Israele, e credo che sia condivisibile da tutti noi, anche se Israele, Sharansky ne è un grande campione di questo, insomma, è sempre stato dalle parti delle rivoluzioni democratiche contro questi dittatori. E qui, scusa, posso dire una cosa? Io mi astenni sul trattato, perché mentre ero d'accordo sul tentativo di mettere fine al contenzioso fra la Libia e l'Italia, e anche sul tentativo riuscito peraltro, perché di 17.000 immigrati poi ne abbiamo avuti circa 400. Però le perplessità le avevi su... Ecco, era l'interlocutore. Esatto. Io penso che invece si può far politica nei confronti, bisogna vedere che cosa si mette al primo posto. Penso per esempio a Reagan. Quando nei confronti dell'Unione Sovietica mise avanti la legge Jack, il famoso, no, c'era stato un emendamento famosissimo che si chiamava Jackson and Bennick, che proibiva di fare commercio, esatto, a meno che non si consentisse. Mise davanti i valori rispetto agli interessi economici. Però io concludo con questo stesso appello di Fiamma Nera: attenzione a non sopravvalutare la giusta enfasi, perché i dittatori vanno via e bisogna sperare che i nuovi regimi realizzino migliori politiche sociali ed economiche nell'interesse dei loro popolazioni. Però non pensare che la democrazia si stia improvvisamente diffondendo, e a chiudere gli occhi sul fatto che ce n'è una di democrazia liberale vera, si chiama Israele, e che magari non ci piace invece, perché sarebbe veramente il paradosso dei paradossi. Grazie Angelo Del Bocca, Ettore Greco, Fiamma Nera, sta lì nel Giornale Radio, appuntamento a domani. Mm-hmm.